Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. C'è chi guarda alle opere d'arte solo per passione e chi, insieme all'interesse culturale, vede anche un valore tangibile di investimento di lungo periodo. Non si tratta di un ambito di immediato accesso per molti risparmiatori e famiglie, anche se iniziano ad esserne sempre più visibili le potenzialità. Eppure l'investimento in arte è diventato ormai un fenomeno mondiale tipico dell'economia avanzata, che può rivelarsi anche un volano per l'economia e lo sviluppo del territorio. Noi ci rendiamo conto che magari per qualche famiglia che ieri ci ha ascoltato con interesse perché abbiamo parlato del destino della tredicesima quest'anno, che probabilmente molte famiglie utilizzeranno per colmare qualche buco che si è aperto negli ultimi mesi per difficoltà, magari per pagare la rata del mutuo arretrato, qualche bolletta arretrata, l'argomento scelto oggi potrebbe apparire un po' così, un po' di disturbo, fastidioso, però dobbiamo rispettare i gusti di tutti, le esigenze di tutti e gli interessi di tutti, per cui abbiamo pensato di toccare anche questo settore. Lo abbiamo fatto anche altre volte in passato a Salva Danaio, abbiamo colto effettivamente anche un certo interesse tra molti ascoltatori. L'importante è che si tenga ben presente questo consiglio, valido in ogni caso e ancora più azzeccato in momenti come questo. Bisogna conoscere davvero gli ambienti in cui ci si muove se si sceglie di investire in arte, fidarsi delle persone con cui si entra in contatto, perché muovendosi nel modo giusto il mercato dell'arte offre delle grandi opportunità e in questo settore è possibile trovare un effetto rifugio, buone performance, buoni risultati in termini di rischio e rendimento. Oggi a Salva Danaio riscopriremo le tendenze del settore con i consigli su come avvicinarsi con consapevolezza per chi fosse interessato. Vi ritrovate nella figura dell'investitore collezionista, ne conoscete oppure lavorate in questi ambiti, case d'asta, gallerie d'arte, e volete raccontarci anche il vostro punto di vista? Noi ne parliamo anche con numeri alla mano, visto che domani verrà presentato il rapporto sul mercato dei beni artistici 2011 dell'Osservatorio sul mercato dei beni artistici di Nomisma. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi in diretta, oppure ci potete scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. e ricordo per gli appassionati di social network che, come quasi tutte le trasmissioni di Radio 24, anche Salva Danaio è su Facebook da qualche giorno, e vi potete collegare al social network cercando l'indirizzo salvadanaio-radio24. Con noi stamattina per parlare del mercato dell'arte Marilena Pirrelli, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, responsabile dell'inserto Arte Economy 24. Marilena, ciao, bentornata. Buongiorno. E poi i responsabili, i curatori, gli estensori del rapporto Nomisma. Ringrazio e saluto per essere ritornato a Salva Danaio il professor Guido Candela, responsabile scientifico di Nomisma, che saluto. Professor Candela, buongiorno. Buongiorno a voi. E buongiorno anche benvenuto al professor Antonio Salvi, professore ordinario di finanza aziendale presso l'Università LUM di Bari. Professor Salvi, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, visto che comunque chiaramente cercheremo anche di capire un po' che tendenze ci sono state in questo mercato alla luce dei eventi di crisi finanziari che sono tornati a spirare sinistri dalla scorsa estate, chiaramente ci interessa anche monitorare oggi cosa accade in borsa. Ieri abbiamo avuto davvero una giornata che non si vedeva da tempo. Abbiamo avuto rialzi fortissimi su tutti i mercati finanziari che si sono poi propagati a Wall Street in serata e questa mattina su tutti i mercati asiatici, perché il mercato, in attesa di capire le riforme che Bruxelles intende prendere per riorganizzare un po' l'architrave europea e gestire al meglio la crisi finanziaria che attanaglia gli stati dell'Eurozona da mesi, ieri c'è stata questa iniziativa congiunta di tutte le banche centrali internazionali, dalla Federal Reserve, la Banca del Canada, la Bank of England, la Banca del Giappone, la Banca Centrale Europea, la Banca Nazionale Svizzera, che in sostanza è un'operazione un po' complessa, difficile anche da spiegare ai nostri ascoltatori, ma in sostanza sono stati abbassati i prezzi sulle attuali modalità di liquidità temporanea per operazioni in dollari verso l'Eurozona. Qui mi fermo, non vado oltre i tecnicismi. In ogni caso appunto gli operatori hanno trovato spunto da questa operazione per tornare prepotentemente sull'equity, sull'azionario, e ieri appunto le borse sono andate molto bene. Oggi c'è una pausa abbastanza inevitabile che arrivasse, cioè il segno meno su tutte le piazze, ma possiamo definire questa una seduta di consolidamento dei rialzi di ieri. C'è un meno 0,6% su Parigi, meno 0,7% su Francoforte, Londra è ancora positiva, più 0,4%, Milano indecisa, adesso è ferma sulla parità. Volano i titoli fondiari a più 7,80% per una notizia arrivata in mattinata sulla possibile ricapitalizzazione del gruppo, che potrebbe essere fatta con un veicolo finanziario, anche qua operazioni complesse che in ogni caso piacciono agli investitori, più 8% appunto per il titolo. Monte Paschi più 2,57%, Finmeccanica che oggi guadagna il 2,43%, nel consiglio di amministrazione previsto in giornata dovrebbe presentarsi dimissionario il numero uno per Francesco Guarguaglini. Intesa San Paolo più 2, Impregilo più 1,48%, segno meno sulla Popolare dell'Emilia Romagna che perde 2,5 punti, Exor meno 2, Fiat meno 2, i titoli della galassia Fiat bocciati da Morgan Stanley, Telecom meno 1,90%, Mediobanca meno 1,84%, euro su dollaro a 1,3467, ciliegina sulla torta, lo spread, il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e quelli tedeschi, precipitato per fortuna 450 punti base. Non è un precipizio ancora sufficiente, ci piacerebbe che fosse ancora più basso, ma in ogni caso anche i rendimenti dei titoli decennali sono finiti sotto il 7%. Anche qua oggi giornata di respiro per il mercato obbligazionario. Lasciamo la borsa e le obbligazioni, andiamo al mercato dell'arte. Non si può cercare un negozio di antiquariato. Del corso, ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Oggi abbiamo scomodato Niccolò Fabi con il negozio dell'antiquariato per colorare un po' la nostra puntata, all'interno della quale parliamo di un tema anche molto affascinante, però non è un tema d'appannaggio di tutti. Bisogna avvicinarsi al mercato dell'arte se lo scegliamo per collocare qui il nostro risparmio o il nostro investimento, perché non sempre i due concetti coincidono. Dobbiamo avvicinarsi appunto con consapevolezza. Intanto possiamo partire dai numeri di questo mercato che sono scoperti, anzi alzerà il velo sui numeri domani. Nomisma presenterà il rapporto dei beni artistici 2011, lo farà a Bari e noi cercheremo di capire appunto quali sono le tendenze più evidenti e più interessanti. Però vorrei aprire la puntata con Marilena Pirrelli, collega delle Sole 24 Ore, per cercare di capire quali sono dal punto di vista giornalistico le tendenze più interessanti che ha intercettato. Mi chiedo, Marilena, se con i venti di tempesta finanziaria che si sono agitati in particolar modo da luglio in avanti c'è stato un movimento rilevante in questo settore. Sicuramente c'è stato un movimento in controtendenza, perché se ancora il 2011, il primo semestre, ha rappresentato nelle vendite pubbliche, che sono quelle all'asta, una leggera ripresa, nelle ultime aste partite dall'autunno il segnale è ancora più forte. È chiaro che è molto diversificato a secondo dei periodi e della qualità dell'opera offerta, ma c'è un approccio a questo tipo di acquisto che appunto può risultare un investimento nel momento in cui per un lungo periodo si decide di fermare lì i propri soldi. C'è una tendenza per gli artisti di altissima qualità ad mostrare ottime performance, e questo lo vediamo soprattutto rimanendo in territorio italiano, anche se il mercato italiano vedremo un mercato sottile, piccolo rispetto al mercato internazionale per ragioni strutturali e normative. Il mercato italiano è in grado di esprimere artisti di grandissima qualità che però, per ritrovare i loro valori effettivi, devono essere venduti all'estero. Per cui noi possiamo vedere come una ceramica di Fontana in Italia possa quadruplicare le sue stime, ma se la portiamo sulla piazza di Londra possa in realtà moltiplicarle in modo esponenziale. Quasi come un derivato finanziario, esatto, con la leva. L'arte è importante, la liquidità dell'arte è in relazione alla piazza nella quale viene proposta. Questo è un fatto molto importante, perché invece il mercato italiano, e oggi la notizia di Finarte che viene ammessa al concordato preventivo, che invece è un mercato che si sta stringendo, le case d'asta stanno in qualche modo perdendo dei protagonisti, le multinazionali si stanno un po' ritirando da questo mercato, speriamo che i nuovi protagonisti siano forti e abbiano voglia di competere. E soprattutto di indirizzare bene anche chi magari in questo campo non si è mai avventurato e decidesse di farlo adesso, perché la borsa non lo convince più, perché le obbligazioni non lo convincono più, quindi magari cerca un rifugio in questo ambito. Quindi cercheremo di capire anche se è azzeccata una definizione di questo tipo per un investimento in questo settore. Professor Guido Candela, responsabile scientifico di Nomisma, le chiedo subito i numeri salienti del rapporto di quest'anno che presenterete domani, per poi andare appunto ad addentrarci anche nei dettagli di singoli settori. Come hanno reagito case d'aste e gallerie alla crisi? Cosa decreta il 2011? Direi che tutte le affermazioni della Marina Pirelli sono completamente corrispondenti ai nostri dati. E in effetti il problema del secondo semestre di quest'anno, del 2011, è un problema ancora da valutare, perché vi sono segnali positivi e qualche segnale di riflessione e anche qualche segnale negativo nelle aste. E per quanto riguarda la reazione, ecco, vorrei dire che come lei ha detto giustamente quando commentava i dati di borsa delle azioni, dipende molto dal comparto con cui, se la borsa mediamente va giù o va su, però ci sono differenze nell'ambito dei comparti, bancario, meccanico e così via. E, ecco, questo primo rapporto, essendo un rapporto annuale, effettua un completo confronto fra le diverse alternative in cui l'investimento in atte si può indirizzare. Cioè confrontiamo per la prima volta il collezionismo dell'antico, quindi quello che proviene dall'antiquariato, e il collezionismo invece del moderno e contemporaneo, distinguendo le due categorie, moderno dal contemporaneo, e nell'ambito dell'antico distinguiamo altri tre comparti, che sono quello dei dipinti, quello dei mobili e quello degli oggetti d'arte antichi. Ecco, questo permette di avere una panoramica completa. Dove in effetti l'investimento sembra essere più dinamico è sicuramente il comparto del contemporaneo. I prezzi del contemporaneo hanno ripreso nell'ambito del 2010, si sono confermati con una ripresa riflessiva, però non esplosiva, è bene che sia così. Nel primo semestre del 2011 il problema è che effettuare delle previsioni con quello che sta succedendo nel sistema internazionale e in particolare nell'area europea bisogna farlo con molta cautela anche noi da economisti. Professor Candela, ci dobbiamo fermare adesso perché abbiamo già la prima pausa, quindi chiedo anche un attimino di pazienza al professor Antonio Salvi, poi vorremmo conoscere qualche dato in più rispetto alla tipologia di investitore che adesso è in grado di avvicinarsi ad un mercato di questo tipo. Qual è anche il taglio medio dell'investimento che è possibile fare per chi vuole avvicinarsi con cautela a questo settore e chi invece è in grado, appunto perché poi diciamo che le banche generalmente avvicinano ad un investimento di questo tipo magari clientela di un certo tipo, quindi evidentemente ci saranno delle differenziazioni anche tra gli investitori, perché bisogna vedere anche se si tratta di un investitore puro o di un vero collezionista, perché anche qui probabilmente poi, come dire, il mercato a cui si guarda è diverso e quindi tanti aspetti da considerare. Eccoci ritrovati in diretta, questa mattina ci siamo avventurati in un campo che un pochino sta infastidendo qualche ascoltatore, veramente ce lo aspettavamo, un ascoltatore che salutiamo. Ci siamo insomma a parlare di questi argomenti con la miseria attuale. È vero, proprio ieri abbiamo parlato del destino della tredicesima che molte famiglie appunto dovranno utilizzare per colmare qualche buco che si è creato nei mesi passati, però è anche vero che insomma c'è ancora molta parte, per fortuna, delle nostre famiglie che risparmiano, che investono in questo settore, per cui vorremmo dare anche delle raccomandazioni per farlo in maniera corretta. La crisi c'è, morde, è pesante, ma non per questo ci dobbiamo dimenticare di tutto il mondo che ci gira intorno. C'è anche questo, un settore molto interessante, un po' di nicchia per il nostro paese, però c'è un accurato rapporto che viene presentato ogni anno, lo cura Nomisma, l'osservatorio sul mercato dei beni artistici di Nomisma, presenta proprio domani il rapporto sul mercato dei beni artistici nel nostro paese. Ci sono delle tendenze molto interessanti, ovviamente direttamente correlate anche con la crisi finanziaria, quindi perché non andare a scoprire quali sono queste tendenze. Saluto anche Andrea che ci scrive: come vedete la numismatica, settore che non viene toccato in questo rapporto, per cui Andrea, senza risponderle, le prometto che io e Marilena Pirrelli ci impegniamo ad organizzare al più presto una trasmissione anche anche su questo ambito e la filatelia. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Una battuta anche al professor Antonio Salvi, che non ho sentito nella prima parte della trasmissione, professore ordinario di finanza aziendale presso l'Università LUM di Bari. Professor Salvi, è giustificato, magari in una fase delicata come questa, ma anche in termini generali, diversificare il portafoglio in investimento con le opere d'arte? E come è andato il confronto tra le varie asset class di investimento? Quindi, se dovessimo fare un rapporto, una relazione magari dell'ultimo anno tra investimento in arte, che è estremamente eterogeneo, lo capisco, borsa e obbligazioni, appunto, che risultati decreta il rapporto? Ma guardi, noi abbiamo due conclusioni principali che mi piace evidenziare anche a conforto delle preoccupazioni dei nostri ascoltatori. È che è vero che si tratta di un investimento, quello in arte, un investimento di nicchia, un po' per persone economicamente agiate, ma è anche vero che è un investimento che, secondo i nostri risultati, riesce quasi sempre a battere l'investimento in azioni, ma non riesce a tenere il passo dell'oro, almeno nelle serie storiche che abbiamo esaminato noi e soprattutto negli ultimi anni. Attenzione però, come giustamente diceva il collega Candela, bisogna essere selettivi, perché esistono all'interno del comparto dell'arte all'interno del mondo dell'arte alcuni comparti che performano meglio di altri, in particolar modo quello dell'arte contemporanea. Giusto per dare i numeri, voglio segnalare a tutti i telespettatori che nell'ultimo quinquennio, quindi il quinquennio che include anche degli anni, diciamo, non esattamente positivi per le diverse asset class con cui normalmente ci confrontiamo, gli investimenti nel mondo dell'arte a livello globale hanno generato un rendimento medio annuo di circa il 2,32%. Se consideriamo che nello stesso periodo il nostro indice, il FTSE MIB, invece aveva avuto una performance del meno 7% e quello americano, l'S&P 500, invece meno 0,40%, si capisce come in realtà l'investimento in arte vada considerato forse con maggiore attenzione. L'unica asset class che è riuscita a superare in questo stesso periodo l'investimento in arte, come dicevo, è l'investimento in oro, che invece nello stesso periodo ha fatto registrare un incremento dell'8%. Attenzione però, perché l'investimento in oro, che è normalmente considerato un bene di rifugio, a differenza di quanto comunemente si crede, si accompagna a un'elevatissima volatilità, diciamo, delle varie asset class che abbiamo esaminato, addirittura sembra superare quello dell'investimento in arte. E infatti, no, tra l'altro l'abbiamo visto proprio quest'estate, ha fatto bene a fare questa raccomandazione, professor Salvi, perché può arrivare a ridosso dei $2,000 l'oncia per poi riprecipitare nel giro di una settimana a 1600, a 1700, per cui credo che questi scostamenti di valore, Marilena Pirrelli, l'arte, adesso io in termini generali, ma qua dovremmo veramente aprire mille parentesi, non ha questa volatilità, credo, oppure può capitare anche in questo ambito? No, sicuramente può capitare anche in questo ambito, ed è tutto legato alla qualità dell'offerta, alla provenienza dell'opera, alla condizione dell'opera, perché appunto un'opera che è in buone condizioni, per questo le televendite rappresentano un luogo inadatto a vendere l'arte. È fondamentale appunto vederla l'opera, prenderla in mano, insomma, no? Il collezionista quasi sempre più spesso si comprano anche attraverso internet le opere, attraverso appunto fotografie e quant'altro, però il collezionista chiede di vederla, di conoscerla, insomma, di entrare in rapporto diretto con l'arte, perché un'opera dal vivo è ben diversa che non in televisione, su web, tant'è le file ai musei, eccetera eccetera. Mm-hmm. Quindi anche l'opera d'arte ha una grande volatilità, questo senza dubbio, quindi a un livello di rischio che però, appunto, come dicevano da Nomisma e dall'Università di Bari, è collegata molto al periodo di riferimento, e quindi la volatilità per esempio del contemporaneo può essere molto alta, però con performance molto più significative. Quando parliamo di contemporaneo, io credo che sia importante definire il periodo, che vuol dire il dopoguerra principalmente, perché su questi valori, non quelli dal 2000 in avanti, ma diciamo nella seconda metà del Novecento, che il contemporaneo in qualche modo si stabilizza, si storicizza e offre dei rendimenti molto interessanti. Qual è l'artista maggiormente intermediato del dopoguerra? Facci così qualche, raccontaci qualche storia, così magari incuriosiamo i nostri, incuriosiamo. Burri è stato l'artista star nelle Italian Sale di Londra, di Fontana abbiamo già sentito tanto parlare, ma appunto Burri ha raggiunto dei record importanti e finalmente entra in qualche modo di buon diritto in quelle valutazioni che hanno raggiunto artisti tedeschi e americani di quel periodo, e che quindi viene certificato anche dal mercato. Ce ne sono tanti artisti italiani della seconda metà del dopoguerra. A me piacciono molto le tele tagliate di Fontana. Secondo te, che tipo di investimento devo mettere in campo per appropriarmi di un'opera di questo tipo? Diverse centinaia di migliaia di euro, allora, o milioni. Non è il momento. Oppure viceversa, scegliere di Fontana qualche altra cosa che non sia, appunto, come dicevo prima, le lacerazioni della tela, quanto le ceramiche, che sono di un approccio già uso più un basso. Gergo tutto sbagliato, le tele tagliate ho detto, invece le lacerazioni di Fontana si chiamano. E quindi ci possono essere appunto all'interno di un artista, e quello che noi faremo sabato prossimo su Plus, che si occupa con una copertina sul bene rifugio, proprio su tutti quei beni non correlati in questo momento alla crisi dell'arte, perché siamo andati a vedere alcuni artisti che hanno battuto l'inflazione e hanno dato anche performance importanti. Tra questi alcuni, ma possiamo pensare un Dorazio, un Baselitz, possiamo pensare un Christopher Hull, sono artisti che nella fascia alta sono già abbastanza elevate quotati. Le quotazioni, però se andiamo a vedere lavori più piccoli magari, oppure le sculture, piuttosto, che possono avere valori ancora interessanti. Inespressi, diciamo, delle grandi potenzialità, nomi che peraltro a me risultano davvero sconosciuti, per cui qua dobbiamo cominciare da zero, anche a partire dalla conduttrice, però è davvero un mondo interessante. Allora, io vorrei sentire adesso un paio di ascoltatori e commentare così le loro considerazioni con i nostri ospiti di questa mattina. Mariana prima toccava il veicolo televisivo come modalità per veicolare ed intermediare anche opere d'arte, non piace agli esperti ovviamente del settore. Sentiamo Tina dalla provincia di Roma, che voleva proprio raccontarci qualcosa a tal proposito. Tina, buongiorno. Buongiorno, in parte ho già capito la risposta che avrò, era appunto per chiedevo se ci si poteva fidare appunto degli acquisti per televendita, perché alcuni miei amici hanno acquistato dei quadri e al momento in cui, per motivi appunto economici, cioè, hanno cercato di rivenderli, hanno avuto difficoltà, ma addirittura difficoltà con la stessa azienda presso la quale avevano effettuato l'acquisto, la quale ha offerto loro un prezzo inferiore, molto inferiore rispetto a quello dell'acquisto. Certo, Tina, grazie. Allora, professor, grazie a lei. Professor Candela, mi ha rivelato Mariana Pirrelli che lei questo mondo lo conosce bene, insomma ha indagato parecchio sulla questione delle televendite, no? Che offrono al mercato anche opere di artisti, poi non so quali sono quelli che vengono veicolati attraverso questa modalità, ma il problema grosso, diceva la nostra ascoltatrice, è che magari qualcuno fa questo acquisto e poi non riesce a rivenderlo. Intanto, in termini generali, non è facilmente liquidabile un bene artistico, perché bisogna non è così immediatamente liquidabile, sicuramente. Le televendite sono aumentate dal 2008, 2009, 2011, lo vediamo sui dati del diritto di seguito, sono passate da un 12% a un 14%. Quindi in qualche modo, in effetti, questa offerta provoca degli acquisti. Ecco, secondo me anche qua bisogna distinguere veramente con grande attenzione il rivenditore che usa le televendite e in che modo le televendite vengono usate, perché adesso le televendite sono di tantissima natura, solo le telepromozioni in cui un imbonitore cerca in qualche modo di presentare gli artisti con la loro storia e l'oggetto della vendita, sono invece anche televendite quelle che sono aste in diretta. Le aste in diretta, dove si può vedere prima l'esposizione dell'opera, si possono consultare il catalogo e si può partecipare da lontano all'asta, quindi c'è un'informazione che può essere preventiva, un'informazione completa. Quindi non è sempre detto che, come dire, l'esperto di settore guardi con la puzza sotto il naso alla televendita di quadri ed opere d'arte? No, sicuramente no, perché dipende dal gestore e dalla modalità con cui avviene. Se è una partecipazione in asta, io posso partecipare sia per commissione o per telefono, come stiamo facendo noi adesso, o posso partecipare direttamente via internet. Per esempio, Christie's internazionale è la casa d'asta che usa di più il collegamento in internet e quindi anche il collegamento in diretta. Però già il fatto insomma che l'asta la faccia anche se attraverso internet Sotheby's piuttosto che Christie's è una cosa diversa che la faccia un benemerito sconosciuto, quindi già quello dovrebbe servirci come orientamento. Certo, questo ci sono case d'asta serie che usano sistematicamente le aste in internet e le aste in rete. E aste invece molto più improvvisate su cui bisogna fare moltissima attenzione. Cioè effettivamente non è un mercato facile, non è un mercato su cui bisogna avere esperienza, non è vero che bisogna avere tantissima disponibilità liquida. Il 75% del commercio in Italia va da 3.000 euro a 20.000 euro. Anche qui bisogna avere tantissima attenzione, perché anche spendere male 3.000 euro è un vero peccato. E certo, può rompere un po' le scatole, immagino. Allora, investire in arte, quanto dobbiamo avere pazienza? Professor Salvi, le regole dei mercati finanziari ci dicono che per avere un rendimento ragionevole dei nostri investimenti dobbiamo avere pazienza nel lungo periodo, anche se questa crisi recente, l'ottica del lungo periodo, soprattutto per la borsa, l'ha cancellata. Detto questo è un ragionamento che vale anche per l'investimento in un dipinto di pregio, in una ceramica appunto di grande valore, magari appunto fatta chiaramente da un artista dei nomi che prima citavamo, oppure i tempi si restringono un po'. C'è anche l'ottica del trader, qualcuno ha anche la, come dire, tentazione di investire in questo settore magari sperando che nel giro di pochi mesi il valore di un'opera triplichi improvvisamente e miracolosamente per poi rivenderla? Ma guardi, io farei due osservazioni a riguardo. La prima si ricollega a quello di cui discutevamo prima della pubblicità, e cioè che sostanzialmente l'arte ha una caratteristica molto peculiare che la differenzia un po' da tutte le altre asset classes, e cioè che paradossalmente più un bene è raro, più è liquidabile, cioè più l'artista è quotato, è visibile, ha già raggiunto certe quotazioni, più è facile ottenere delle buone performance. Ciò detto, è vero che i fatti insomma anche qui parlano abbastanza chiaro, sempre volendo restringere l'analisi agli ultimi 5 anni, è interessante sottolineare che se un telespettatore avesse investito un euro nel 2006 in un'opera d'arte, 10, 100 o 100.000 euro, ne avrebbe ottenuti oggi in media 1,29. Rispetto ad altre asset classes, per intenderci sostanzialmente l'indice azionario invece in questo caso sarebbe stato di sole 0,44 lire euro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente in media, ma ovviamente la media nasconde tante insidie, l'investimento in arte è redditizio anche su orizzonti non elevati come possono essere 5 anni, però bisogna essere selettivi, e la selettività in questi casi riguarda sostanzialmente il comparto in cui si decide di investire, certo, e l'artista in cui poi si fa la valutazione finale. Professor Salvi, stavo ragionando sul refuso che ha avuto, non evochi tanto le lire qua perché già c'è chi ha avuto la tentazione negli ultimi mesi e non ci è piaciuto per niente questo comportamento. Allora sentiamo Carlo da Rimini, poi ho un'altra domanda per Marilena Pirrelli. Carlo, buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno Deborah, complimenti per la trasmissione. Grazie Carlo, ci dica. Guardi, la mia voleva essere una considerazione e una domanda, nel senso che i miei genitori hanno scelto già da diversi decenni di investire una parte del loro reddito o dei loro risparmi in beni di antiquariato, soprattutto con una certa attenzione particolare ai mobili. Orientandosi peraltro su una categoria, su un livello medio-alto, per cui hanno acquistato, informandosi e anche affidandosi a del personale di loro fiducia, dei mobili di un certo pregio. Mi chiedo un po' di sintesi, Carlo, perché stiamo veramente volando. Quindi? Ecco, in buona sostanza è questo. Regolarmente, quando si valuta la possibilità di monetizzare poi questo investimento, ci si trova di fronte a dei problemi che sono praticamente sempre gli stessi, e cioè i commercianti, perché poi a loro bisogna rivolgersi per monetizzare, perché loro acquistano, pagano praticamente pochissimo e allo stesso tempo dicono sempre le stesse cose, cioè che il mercato dei mobili nel frattempo è andato ampliandosi, in Italia soprattutto c'è un'inflazione di mobili francesi, di mobili stranieri, e allo stesso tempo che ormai su eBay l'acquirente può trovare qualunque tipo e quindi insomma trattano sempre a ribasso. Carlo, abbiamo capito la sua osservazione. Marilena, è così? Ti risulta? Questo è un discorso che vale solamente per il mobile d'antiquariato, un po' anche per tutti gli altri ambiti toccati dall'arte, concetto amplissimo però. Allora, sicuramente il mobile è uno dei settori che più ha sofferto nell'ultimo periodo, per cui non trovo strano che abbiano difficoltà a ricollocare il pezzo. Ovviamente il commerciante può essere il gallerista, l'antiquario, piuttosto che la casa d'arte. E comunque è pur sempre un mercato, e quindi si negozia, si tratta. È un mercato, appunto, non siamo su una piattaforma in cui domande e offerta anonimamente si incontrano. Quindi sicuramente la liquidabilità e le commissioni dell'arte devono in qualche modo rappresentare poi tutto il valore complessivo di un'opera, nel senso che, come appunto spiegavamo prima, 5, 10, 15 anni a secondo di quanto tempo passa, in ogni caso il costo della illiquidità dell'arte e della commissione, che solitamente sono tra il 30-40%, pesano. Ovviamente, assolutamente sì, sono pesantissime. Non c'è il capital gain, la tassazione del capital gain però non c'è, quindi deve, come dire, essere presente nella valutazione. Praticamente finisce in dichiarazione di redditi, diciamo, un tipo di investimento, esatto, di questo non tipo, non è una poca cosa. Quindi questa è una ponderazione che va fatta quando si fa una scelta di investimento di questo tipo. Sicuramente le scelte di questi signori seguiranno il gusto di questi signori, ma magari non le tendenze. Scopriamo che sull'antiquariato, dal rapporto Nomisma, gli antiquari pensano che nei prossimi anni non andrà meglio. Per cui, insomma, anche prospetticamente, mentre sul contemporaneo i galleristi hanno una visione maggiormente positiva, sull'antiquariato la visione è anzi anche un pochino negativa. Un mercato statico sicuramente non è un bene nel quale pensare veramente di facilmente ritrovare quei soldi che abbiamo allocato. Allora, mettiamola allocato. Così, visto che questa famiglia è già così illuminata e guarda questo settore, cambi ambito, dall'antiquariato si passi ad altro. Professor Salvi, visto che non si paga il capital gain sull'investimento in arte, non è che se arriva la patrimoniale, come dire, gli investitori verranno tassati diversamente? Ma è una delle ipotesi allo studio. C'è un problema fondamentale però che il legislatore si sta ponendo in questi giorni, cioè come fare il censimento di queste opere d'arte, sostanzialmente, cioè come andare a scoprirle, cosa non semplice, quindi secondo me poi alla fine sarà difficile, insomma, poter inserire anche l'opera d'arte. Allora, sì, abbiamo praticamente un minuto di tempo prima di salutare. Marilena, Cristiano ci scrive: possiedo una collezione di opere di Antonio Ligabue, volendo venderne alcune, qual è il miglior modo per avere una quotazione seria? Beh, Ligabue sicuramente è un artista noto, studiato, con un catalogo. Allora, sicuramente è un artista che le grandi case d'aste, pensiamo appunto da Porro a Sotheby's, a Christie's, a Pandolfini, a Farsetti, eccetera, possono prevedere di averlo in catalogo. Sicuramente io mi rivolgerei a questi esperti per una valutazione, considerando che però Ligabue ha qualche difficoltà per quanto riguarda la falsificazione. Ah, ecco, per cui è molto falsificato, è abbastanza, quindi bisogna scoprire, ecco, autentica, esatto, dare una certificazione all'opera, bene, se lui ha le sue spalle autentica, fattura e quant'altro, che, come dire, gli garantiscono questa fotografia dell'opera. Allora, quindi guardi Cristiano, se vuole un vademecum più dettagliato ci scriva, ci facciamo aiutare da Marilena Pirrelli, appunto, a darle delle indicazioni corrette, così come per Giorgio da Verona, che non riesco a sentire in diretta, per la grafica, litografie, lui chiedeva se vale la pena investire. Noi non riusciamo a rispondere oggi, magari, siccome però poi piano piano gli ascoltatori all'inizio sono un po' prudenti su questo tema, poi escono tutti alla fine, ci ritorniamo magari sotto Natale per fare una puntata un po' più leggera rispetto a tutte le preoccupazioni economiche che abbiamo. Grazie a Guido Candela di Nomisma, al professor Antonio Salvi della LUM di Bari. Salvadanaio torna domani, buona giornata a Marilena Catena, naturalmente, buona giornata a tutti, a domani.